questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento della domenica con RadioTube. Noi come sempre vi parliamo della realtà attraverso la visione della realtà addirittura. Certo, è da ieri che ti sei presa. Non lo so perché mi è venuta questa cosa. Sì, perché parliamo del web, della televisione, della social TV, ma in questa puntata abbiamo un ospite molto particolare. Sì, perché è la domenica dei regali a Daniele e delle star. Era da tempo che parlavamo di avere con noi un personaggio che a me piace tantissimo, che a Daniele piace tantissimo, che è uno scrittore, che è un comico, che è anche un uomo molto molto molto intelligente. Io ascolterei subito un frammento della grande arte comica di Natalino Balasso. Avete notato che dall'espressione scendere in campo è derivata l'espressione scendere in politica? Come se la politica fosse da basso, come se fosse in cantina. Leggo sui social network che la gente scrive basta, è ora di finirla. Se te gli domandi ma finirla con cosa? Ti rispondono basta, è ora di finirla con ste domande. Fino a un anno fa dicevano votiamo tutti Grillo. Adesso dicono basta, non se ne può più di Grillo. Non fa in tempo a girar la testa che la gente non ne può più. Ecco perché ho deciso di scendere da basso, in politica, per fare un partito di quelli che non ne possono più, di non poterne più. Quindi buongiorno a Natalino Balasso, buongiorno. Wow. Buongiorno a voi, a tutti e 24. Tutti e 24. Ecco. Natalino, che meraviglia averti. Sai che noi parliamo sempre, quanto ne tempo era che dicevamo? Diverse volte, nelle nostre email, nelle nostre riunioni. Sì, perché sui social... Anch'io mi chiedevo, ma quando è che mi chiamano? Infatti, no, perché sui social vai fortissimo. Non lo so se è una bella cosa da dire. Comunque, insomma, c'è della gente che viene lì, guarda le cose, non so se capiscono. Sinceramente, tu fai un sacco di cose. Diverse, tra l'altro, tra di loro. Certo, e ti sei addirittura inventato una tua TV, una Telebalasso online. Perché hai preso questa decisione? Te lo chiedo subito perché sai, noi parliamo molto di social TV, di TV, ma anche di TV che viaggia via web. Beh, insomma, la scelta era necessaria. Volevo fare parlare di temi e usare dei formati che in TV non si potevano usare. Cioè, nessuno me l'avrebbe fatti fare, insomma. Tant'è che adesso che le cose stanno andando, direi, molto bene... In 4 anni ci sono più di 10 milioni di visualizzazioni, anche le TV si fanno sentire e vorrebbero fare queste cose. E allora io gli dico alla TV, va bene, facciamo questa cosa tale e quale come l'ho fatta nel web. E loro dicono, beh no, proprio tale e quale no. Sì, perché tu hai questo, tra gli altri spunti, hai questo personaggio che è un personaggio politico. Tu fai anche ogni anno il discorso di Capodanno, che è una cosa serissima. Certo. Sì, non so se hai notato che non sono discorsi di fine anno, ma sono discorsi di Capodanno. Di Capodanno. Cioè, mentre il discorso di fine anno è un consuntivo sull'anno passato, il discorso di Capodanno dovrebbe dare speranza, però un discorso di Capodanno che dice che non c'è speranza è ben triste, non so perché la gente rida. Amici, il 2014 sarà l'anno della ripresa, anche se in verità ripresa significa che prima stai bene, poi dopo stai male e poi dopo stai bene di nuovo. Ma se tu stavi male anche prima, non è ripresa, è una roba cronica, è come volersi riprendere dal coma irreversibile. Per cui, invece di usare paroloni come ripresa, io suggerirei di volare bassi. Limitiamoci a vegetare e a delinquere moderatamente come abbiamo sempre fatto. Al Capodanno dell'anno scorso tutti si facevano gli auguri di un 2013 meraviglioso, di un anno fantastico pieno di bellissime sorprese. Abbiamo visto come è andata a finire. Ecco, vogliamo bassi, auguriamoci un 2014 normale, che già un anno normale vuol dire che è andata di culo. La rete, Natalino, la rete, dicevi all'inizio che tu la stai anche usando per sperimentare e fare nel massimo della libertà possibile quello che vuoi fare. Però sulla rete uno dei linguaggi più diffusi è proprio quello dell'ironia. Sono un po' tutti giornalisti e anche un po' tutti battutisti. Tu come lo vedi il rapporto dal punto di vista di quando leggi, non di quando ti mostri con la rete? Ma veramente, cioè, io quello che sto notando è che in rete sta trasbordando la realtà, insomma, e perché non può essere diversamente, è chiaro. E quindi piano piano la rete ci assomiglia sempre di più. Per cui non ci vedo niente di innovativo se non nel mezzo, nella velocità di comunicazione, ma sono d'accordo con i Wu Ming quando dicono che non sempre la velocità di comunicazione è un bene, talvolta bisogna anche rallentare il ritmo. La rete porta alla performance e quindi è ovvio, la rete è comunque vista come una vetrina, no? E quindi tutti ovviamente cercano chi meglio, chi peggio, chi in maniera goffa e chi in maniera elegante, di mettere in mostra delle cose che ritiene possono essere interessanti di sé. Posso leggere, Marta, una cosa che ho letto sulla pagina Facebook di Natalino e che è esattamente la stessa cosa che ho pensato nei giorni scorsi e non riuscivo ad esprimerla con la stessa chiarezza. Io non capisco questo astio contro le sentinelle in piedi. A me sembra che manifestino un'idea che molte persone hanno e per quanto io consideri quest'idea balzana, non vedo perché non possano essere considerati liberi di manifestarla. Oltretutto, se non lo fanno in maniera rumorosa, non sono nemmeno da considerare fastidiosi. Reagire a questo con violenza è tipico di chi ha paura del confronto. Certo, se cominciassero a fumare e a mettersi delle tute bianche, mi preoccuperei. Peraltro, Natalino, in uno dei tuoi appunto video avevi precorso i tempi, perché c'è proprio il candidato che parla della famiglia tradizionale. Si usano termini come la famiglia naturale. Sai bene che la famiglia naturale era quella in cui ci si accoppiava con chiunque, anche con animali. Quindi insomma, io non userei il termine famiglia naturale se fossi in loro. E poi questa cosa della famiglia, che è una cosa un po', secondo me, fuori tempo, completamente fuori tempo. Cioè, la famiglia era un'organizzazione della società, la base dell'organizzazione della società. Quando lo era? Quando c'era un padre che era il tiranno della famiglia, una madre che faceva tutto quello che diceva il tiranno e allevava i figli, e c'erano 20 figli. Quindi poi c'erano 50 nipoti, la famiglia era una roba di 100 persone. Io riferimento a quelli con le tute bianche che fumano, ovviamente è alla serie televisiva The Leftover. The Leftover, sì, perché tutto, su Twitter ormai era tutto un sono i guilty remnants di Leftovers. Esatto. Sì. Perché è giunto il momento di dire basta, le accise e il lavoro, la casalinga, come fa con le accise? La spending review, basta, ci vuole la lira, ci vuole. Tutto il settore agricolo è in grande sofferenza. È giunto il momento. La famiglia, cosa ne sa un omosessuale di cosa che è la famiglia? Le strade, i trasporti, perché l'automobile, il mercato non tira, e allora l'edilizia, basta, è ora di dire basta. Sì, posso chiedere un consiglio a Natalino? Urca, sì. Ecco, perché noi lo facciamo spesso anche in trasmissione, spesso anche in rete, cambiamo tono, no? Improvvisamente, cioè si passa da un argomento serio con un tono serio a un argomento meno serio con un tono meno serio. Questo per un attore è molto facile come tecnica, perché è la sua capacità tecnica professionale. Però in rete, dicevi prima, Natalino, è più difficile, perché non ti capiscono, è molto l'ironia da cogliere è molto difficile. Ci dai un consiglio su come si cambia tono quando si parla o si vive in rete? Credo di essere il meno indicato, perché non vengo sempre compreso quando cambio tono. Però è anche vera una cosa, siccome io quello che dico sempre, c'è scritto anche sul frontespizio della mia pagina, esatto. In rete facciamo tutti letteratura, inutile che ci mettiamo in testa che stiamo facendo cronaca, che stiamo parlando dei fatti. Stiamo facendo letteratura perché io ritengo che la realtà è un racconto e quindi la realtà dipende da chi te la racconta. Se tu guardi la CNN hai una visione della realtà, se tu guardi Rete 4 hai un'altra visione della realtà e sono due racconti della stessa realtà, ma questo vale per tutte le persone. In rete è la stessa cosa, ragion per cui è anche giusto, siccome si fa letteratura, che ognuno la faccia a modo proprio, io quindi non rinuncio a quello che può essere un mio esperimento stilistico per andare incontro alla comprensione. C'era una vecchia canzone, vecchissima canzone di Roberto Vecchioni, che a un certo punto interrompeva la canzone e parlava nel disco, no? Parlava e diceva: signora, non posso fare sempre canzoni che piacciono a tutti, andare incontro, semplificare, facilitare. Ed è così, perché se no fai ogni volta un post di 62 pagine in cui devi spiegare ogni parola che stai dicendo. Come ad esempio quelli che dicono: siccome tu critichi un aspetto della realtà, e ti dicono: eh no, tu devi criticare anche un altro aspetto della realtà, non puoi criticare solo questo perché sei parziale. Siamo tutti parziali, è tutto parziale, non puoi scrivere sempre di tutto, è ovvio. Ma siccome la gente è abituata allo schieramento, in questa nazione ci hanno abituati allo schieramento, per cui insomma, se ti piacciono i Beatles, se non ti piacciono i Rolling Stones, se ti piace la Juve devi odiare l'Inter, eccetera. Ci interrompiamo solo per qualche istante, Daniele, sì. Dopo saremo ancora con Natalino Balasso per la seconda parte del nostro RadioTube della domenica. Adesso è il momento del traffico. YouTube. Seconda parte del nostro RadioTube della domenica. Come dice Vasco, siamo ancora qui. Siamo ancora qui e c'è ancora Natalino Balasso. Assolutamente sì. Io sono d'accordo con te, tu mi hai detto per molte settimane invitiamo Natalino. Già dall'anno scorso. Chiamiamo Natalino Balasso, effettivamente c'è, ci piace, eccolo qua. Ma la cosa più importante per un politico è il luogo in cui si svolge il dibattito sul paese. Il Parlamento. Ma che Parlamento? La televisione. Ma quando lei sarà in televisione, deve ripetere il mantra: ignori le discussioni, ignori le domande. Lei deve concentrarsi solo sul suo mantra. Esclusivamente per farsi legge ad persone. I consumi, la ripresa, la famiglia, ognuno a casa sua, ognuno a casa sua. E se mi attaccano? Ha presente quei giornalisti riccioletti, fighetti, tipo Travaglio, che si studiano i tuoi temi delle elementari? A me se mi attaccano mi prende il panico. Vorrei tornare sulla televisione, perché tu con grande ironia, ma anche grande precisione, nei tuoi video in rete prendi in giro, ma molto intelligentemente ovviamente, i talk show dei quali noi parliamo spessissimo. A un certo punto tu dai delle ironiche ma serissime indicazioni su come si deve comportare un politico e fingi di essere ospite di Santoro, fingi di essere ospite di Floris, addirittura suggerisci la tecnica Zesper Masculine, cioè la tecnica di una sorta di prestigiatore in grande stile che ha permesso insomma l'esercito americano di conquistare dei grandi successi. Tu vuol dire che insomma hai studiato bene l'aspetto dei talk show e hai studiato bene come ci si deve e non ci si deve comportare nei talk show? Beh, questo chiaramente secondo il punto di vista di uno che istruisce un politico, per cui un politico che deve andare in TV a ingannare le persone. Certo. E quindi Maskelein usava questi sistemi di prestidigitazione però in vasta scala. Quindi aveva costruito per esempio questo falso porto di Alessandria, i tedeschi bombardavano quello falso e il porto vero era rimasto salvo. Allora ciascuno di noi ha dei falsi porti di Alessandria da dare in pasto alla gente per, come dire, tenere nascosti quelli più sensibili. Si adotta la tecnica Maskelein. Che caso è sta skyline? Jesper Maskelein era un illusionista che durante la Seconda Guerra Mondiale mise la propria arte al servizio degli americani. Pensi che con la sua equipe ha costruito un falso porto di Alessandria con luci, strade e contraerea gli aerei tedeschi hanno bombardato per 9 notti il posto sbagliato. Il porto di Alessandria, tenuto al buio qualche chilometro più in là, si salvò. Ora io le domando, qual è il suo falso porto di Alessandria? Cosa si può dare in pasto alla stampa e agli avversari per tenere al buio i suoi obiettivi sensibili? È lo svelamento di un sistema che viene usato, basta seguire qualsiasi dibattito politico per vedere che la discussione si sposta sempre dai temi di cui si parla a temi collaterali, secondari, e fa comodo ad entrambi perché nessuno vuole riportare il tema al fulcro della discussione e si preferisce magari offendere la mamma e parlare di cose secondarie. E la verità è che insomma, anche i talk show sono un po' il riflesso di quello che siamo e sono la dimostrazione che non siamo capaci di discutere. Cioè, il fatto che discutiamo arrabbiandoci e alzando la voce significa che non siamo capaci di mettere in campo argomenti, perché se tu dici che una cosa è così, io ti dico la cosa non è vera, poi tu mi dici ma tu non hai capito niente, io ti dico ma tu perché sei raccomandato e l'altro mi dice ma tu perché nell'89 avevi... Cioè, chiaramente non siamo stati educati a discutere. Allora, qual è il problema qui? Torniamo ancora al fatto che queste persone da piccole a scuola non sono state educate alla discussione, cioè a mettere in campo argomenti. E se hai qualcosa che porta qualcosa in più alla discussione, la dici, se no stai zitto, cioè non è necessario parlare sempre, urlare, affermare la propria faccia, la propria immagine con questo sgarbi perenne, ormai sono tutti sgarbi in televisione, no? Che sgarbi è come dire, è il non plus ultra della funzione fattica, perché sgarbi per anni non ha detto niente, ha soltanto manifestato una capacità di linguaggio e una capacità di incazzatura, e questo alla gente è piaciuto molto, perché poi adesso piacciono molto le cose ciniche, quindi è piaciuto molto, però alla fine il succo, alla fin fine c'è poca roba, infatti al mercato senti le vecchine che dicono Sgarbi è un bravo critico d'arte, gente che non ha mai visto un quadro e che non sa cos'è un critico d'arte. Che ideona, io butto lì 4 troiate ai complottisti e nel frattempo posso farmi un sacco di truffe nell'ombra. Forza, stiliamo una lista di falsi porti di Alessandria. Ed ora una notizia clamorosa, Balasso ha vomitato all'udienza del Papa. Veda Santoro, io ho già provveduto a denunciare la gelateria di Piazza Navona che mi ha venduto il mantecato a radicchio. Tra l'altro, su uno dei tavolini c'era lì appoggiato il noto giornale clandestino Il Manifesto, per dire. Arrestato il gestore comunista della gelateria di Piazza Navona, è risultato positivo al test antidroga. Ha fatto il giro del web la foto del politico di destra Balasso mentre fa sesso con sua nonna. Veda Floris, purtroppo, come dico sempre io, al cuore non si comanda. Ma dove cazzo è che va Floris, avanti e indietro continuamente? Stia fermo in un posto, ah! Natalino, agli sgoccioli a Milano con Stand Up Balasso, però torna ancora Stand Up Balasso con altri appuntamenti. Ci sono tutti su natalinobalasso.it, ma anche Velo di Maia. Due sì, monologhi. Natalinobalasso.net, perché net. Io sono molto net. Ah, tu sei net. Natalinobalasso.net. Anche Velo di Maia. Due monologhi diversi, insomma, già avere in scena due monologhi è complicato, esatto, non è da poco. Sì, per fortuna non li faccio nelle stesse sere, perché sennò diventerebbe lunghissimo. Una la sera, una la mattina dopo. Durano più di 2 ore l'uno. Però sì, mentre lo stand up è una cosa che faccio e che penso farò ancora a lungo, ed è una specie di antologia, una collezione di brani comici dei 10 anni passati. Quello nuovo che si intitola Velo di Maia è uno spettacolo sulla contemporaneità, e questi temi di cui abbiamo parlato sono un po' presenti anche in questo spettacolo. Sei partito da due discorsi politici anche questa volta, perché nei discorsi politici c'è tanto? Beh, ci sono molte, come dire, molti aspetti delle nostre paure, dei nostri desideri, però ovviamente io prendo i discorsi politici e ovviamente ne tiro fuori quello che è il succo, no? Il succo estremo, quindi per esempio il discorso di Colin Powell, quando Colin Powell dice al mondo che ci sono le armi chimiche in Iraq, In realtà quel discorso diventa la favola del lupo e l'agnello. Io ci rinuncio. Ma cosa fa? Ma non mi abbandoni! Ma lei non vuol capire. Cosa c'entra la verità con la realtà? Perché un politico dovrebbe voler dire la verità? I politici non vogliono dire la verità. Ma non sono i politici, è la gente. La gente non vuol sentirsi dire la verità. La gente non vuol sentirsi dire che deve consumare di meno, che deve cambiare abitudini. La gente vuol sentirsi dire che se c'è da punire qualcuno, siano puniti gli altri. Che se c'è da penalizzare qualcuno, siano gli altri. Ma lei se l'immagina se veramente un politico dicesse quello che pensa dei suoi elettori? Non adesso basta, veramente basta con questa politica dello slogan e della propaganda. Siamo sinceri, se io avessi una soluzione, non mi cercherei uno stipendio in Parlamento. Se io avessi delle soluzioni, non sarei nemmeno umano, perché non esiste un politico che abbia una soluzione che mette d'accordo tutti. E se io credessi nella coscienza della gente, non andrei in giro in cerca di ultra e di tifosi come voi. Diciamo le cose come stanno. Per me fare il politico è solo la risoluzione dei miei problemi. Natalino, grazie per essere stato con noi, prezioso, prezioso, che meraviglia. A me piace molto il fatto che non ha paura di utilizzare gli accenti, le inflessioni, perché c'è una storia di regioni, insomma, di pop. È divertente, è bello che sai, ma ci siamo un po' rovinati anche con quest'idea dell'addizione, perché per la gente l'attore vero è quello che non si capisce da dove viene, è quello che ha un accento che non esiste nella realtà. E no, al contrario, perché c'è la storia negli accenti. grazie Natalino per essere stato con noi. Ciao. Come vola il tempo, come passa il tempo, quando ci diverte anche la domenica, Daniele. Però abbiamo detto un sacco, non noi, però il nostro ospite ha detto un sacco di cose interessanti. È riuscito, sai, a stupirmi nonostante avessi già un'ottima impressione di lui. No, abbiamo raccontato un sacco di cose e anche di storie. E quindi? E quindi niente, dobbiamo darci appuntamento alla prossima settimana, però abbiamo comunque il podcast. Sì, da domani su www.radio24.it e poi abbiamo @MartaCagnola, @DiBellasio, #RadioTube. Per chi frequentasse Twitter, beh, ringraziamo chi è stato con noi in regia oggi, anche ieri Gianmarco Ferronato, detto Matteo. Eh sì. Perché lo chiamiamo sempre Matteo, ma non si sa perché Matteo. Qua in questa radio è tutto così, tanti soprannomi. Vabbè, insomma, dobbiamo salutarci, ma ci ritroviamo sabato prossimo alle 18 con RadioTube. Ciao.